forte gli andemmo per andemmo. Andemmo per andemmo, o lui. Ok, là, sono pronto, è pronto a mangiare, ci sentiamo dopo. E allora vi lascio anche io che si è fatto tardi, là ci porto il cane. Così almeno è contento, che ce l'ho portato dopo il pranzo oggi perché mi stava rompendo, invece c'era un bagno in calore, io pensavo che fosse a disinteria perché si stava lamentando, invece era perché c'era le canne in calore. Allora cammina a farallo. Ma lo sai che non si può tenere, ti tira una base all'altra perché diventa scemo, buh. Ah, lo so, sì. E poi quello gli... mia figlia l'ha fatto, l'ha fatto fare l'operazione. Ha sterilizzato. Allora, non più è sterilizzato. E così almeno non siete più bisogno, lo so. Però costa un bel, adesso conviene farsi l'assicurazione che ti paga tutto, anche i vaccini. Sì, infatti. Ti paghi 60 euro all'anno. E ti pensano a tutto, se lo devono operare ti pagano al 100%. Sì, quello sì, già me l'hanno detto. Però Gitto, è cosa la baga fa? Certo, regalagli 60 euro. Lo so, ma se poi ti trovi in una condizione, magari devi spendere anche 1200, 1300 euro per l'operazione, perché magari il cane c'ha qualche cosa di grave, cosa, già ti conviene, e affutti di niente, ti conviene. Loro ci guadagnano dal fatto che non tutti usufruiscono, ma già ti conviene, capito? E vabbè, e comunque, ognuno fa come crede, però... Anche io non l'ho fatta perché assicurazione qua, assicurazione là, una cosa si unisce all'altra e sono sempre in pisi. Infatti, è giusto, tanto non ve ne so poco i fumigini che viene, il mese di dicembre. No, a me a gennaio c'ho bollo, assicurazione e via dicendo. E poi fanno il conguaglio di fine anno, e ti gribani. No, io ho parecchie spese, ce le ho tutte questo mese, di dicembre, ce le ho. Vabbè, ma già prendi la tredicesima, quindi già ce la fai. Hai compreso. E ti da pagisci, no? Beh, ne approfitta, no? Siamo i figli della tredicesima e ti fanno i figli di là, non hai compreso che non li devi finire di là, baluchito, ma andare. Anche non lo so, e cose, assicurazione, due luci, e cose che non vedo a pagare. A me la luce mi è già arrivata. No, io questo ce l'ho questo mese, quest'anno ce l'ho a dicembre, a fine anno. Poi la bassa mondezza, e il 7 l'acqua in scadenza. E cos'è che non vedo? L'assicurazione della macchina che vi raggiunge a mesi, la sono fatta ogni mese da pagare, così non tocco a ogni 6 mesi. E quanto paghi ogni mese? Quasi 40 euro. Vabbè, ma comunque ti fanno mettere una voce, non mi pensi più, ogni mese devi andare assicurazione a pagare la boh. Non devo andare anche, bisogna andare alla banca direttamente. Ah, gli hai fatto il bonifico, sì sì. No, se li prendono loro direttamente dalla banca. Andà bene. Ho capito, lei sta malato in banca, e vabbè, ciao, va bene così. Se si riprendono loro, ma continua a vivere. Quindi, manco li vengo io. E ho un sacco di cose, di pagamenti ho dalla banca. Quindi non mi preoccupo. Anche io ho luce, acqua, telefono, ho io non ci vado mai a pagare le imposte e cose, non vado mai. E se devo fare qualche bonifico preferisco farla stamattina, dargli i soldi che mi chiedo, 2 o 3 euro che ti chiedono in più, ma almeno non posso via. Sì, no, allora a me l'unica cosa che ho è l'acqua, che non ho messo a pagarcelo la banca. Solo quello c'ho. No, vabbè, l'acqua guarda, è condominiale, ce la divide il condominio e noi paghiamo un tanto, quello ci mandano un tanto da pagare di acqua. E noi paghiamo, capito? Io no, io mi arrivi la bulletta e vado a pagarla il giorno prima o il giorno 7 vado a pagarla. E dove vai in banca? No, alle poste qua, e vado il giorno che sto andando a fare la spesa, passo lì, entro 5 minuti, entro e esco. Passa per bongo, quando per me quasi mi fa gaglienti sempre che hanno ando. Se non capite c'è la distribuzione, sì. Ormai non ce ne sono più, ormai le pensioni sono tutte accreditate. Così è, e anche gli anziani, non penso che gli anziani si facciano accreditare in banca. Solitamente vanno lì. No, io ho visto che anche gli anziani ce li hanno accreditata la... Devono essere tutte accreditate. Non te ne danno più no, senza essere accreditata. Ma non lo so, non so come funzioni. A me lo stesso mi è accreditata in banca. Però magari prima mi ricordo che alle poste c'era la fila, si bisticciavano anche, c'ero prima io, questo è un magazzino qua, un magazzino. E prima, ma va, è sempre bogaglienti, quando vado, ogni volta che mi sono andato il giorno avanti ieri, martedì, e c'era un pochino di gente, 4-5 persone c'erano. Ho aggettato 5 minuti e da voi tocca a me, quindi era numero 56, ero 60, 4 massoni valio prima di me. E così già andava, aspetta che mi regolo, ecco. Ora, perché positivi c'hai, insomma, 1, 2, 3 prova. No, c'hai l'avvento, la sento. La ventola del coso dell'alimentatore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, già va benissimo, già stai uscendo bene. Se non è andato con la radio è cuffa, No, io non antenno cuffa, io antenno giara. Chiara, chiara. Già la chiamo e deve essere lì fuori. No, forse è perché ce l'avevo troppo vicino l'altro giorno, adesso ce l'ho un braccio lontano, chiara la radio. Sì, no, io ce l'ho a 50 centimetri ce l'ho il microfono. Io ho un braccio lungo, un braccio mio è abbastanza lungo. Già, bisogna parlare da lontano perché sennò la radio risulta cuffa, capito? Ah, ma se c'è un gufo, ma cuffo buffo, vuoi entrare in casa di un altro? Guarda, va bene, 1, 2, 3, 4, 5. No, c'è altra gente anche, con la portante. Ah, che simpatici. Adesso mi giochi con la macchinetta di più e che me ne sei bandendi. Ciao, dottore, ci sentiamo. Ok, ciao Gianni, alle prossime, ciao. Ciao a tutti, ciao anche agli ascoltatori. Ciao Gianni, ciao. Ma c'è, andando via stai Gianni? Sto andando via, devo portare il cane fra. Te lo mando quello, Lucio, te lo faccio vedere. Bellissimo, molto bello. Mandarmelo in WhatsApp già, dopo. Capito? Che vergine. Andate. Ciao, buona serata, dai. Devo portare a te Lucio che mi sta guardando come direbbe, non ti muovi. Andate, ciao Gianni, dai. Ce la riascoltare prossima, allora, vai tu. Sì, ok, ciao già. Fra, anch'io sto chiudendo, che mi manda a pigliarmi la bottiglia. passerebbe anche lì. Ci risentiamo alle prossime. Ok, ciao Franco, stammi bene. E ciao agli altri, sani Sarrato. Ciao a tutti, coeretti per me, saluto eventuale essere più bene per me coeretti, dai, sto facendo cosa per accenare adesso. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao Luca, andiamo a mandicare, ciao. Ciao Luca. Ciao Tore.